sto gufo. Luca, mormito sì. Perché è Gio Maria? E che? Che, Tore? Sei a Gio Maria? Sì, buonasera, e beh. Com'è la serata? Sì, bagnata. Un po' bagnata. Ah, vero? E come vuoi che sia? Non ho visto niente ancora, Per cui non mi sono nemmeno affacciato. Ehi, lascia piovere, a far bene l'acqua. Chi che ne vuole fare, lasciala fare, togli, in estate ci serve. Sì, vabbè. E allora, cos'hai combinato oggi? Io, ho già buttato a posto un computer. Ah, ma... E cosa vuoi fare? La giornata di puffini! Infatti, giornata di puffini! E allora, oggi è giornata di puffini! A casa, a mangiare! Dormire! E cosa vuoi fare? Non di più, Buonasera, Gio Maria! Davvero? Così, cosa hai detto, Otto? C'è nulla, ti ha salutato una persona! E chi è? Chi è? Boh, non lo so. Sono visto Gio Maria. E chi sei? Boh, non risponde. Non ha garanto di fare da. No, ti ha salutato Vittorio, eh. Ah, Vittorio, non lo sentono. Quello lì se non si mette l'antenna in casa, cosa fa, Certo. Si deve mettere l'antenna in casa con l'alimentatore, è tranquillo allora. Boh, non lo so, se in macchina, se fuori, boh. Ma chi già non l'hai sentito, no? Boh, Vito! Oh, io non la sento, No, non sta parlando. Bacchisio, non l'hai sentito Gio Maria? Cosa? Non l'hai sentito Bacchisio? L'ho sentito a... prima della una, che c'era anche Marino, e abbiamo fatto una bella chiacchieratina, ma ho fatto mezz'ora, e li ho lasciati chiacchierando con Marino. Poi era l'ora di pranzo, allora l'ho chiuso e così via. Già l'ho sentito, prima della una, Quello sì, prima della una. Ma è il 27 però, non qua, Il 27. Aspetta che provo a chiamarlo. Dai, va. Oh, non rispondi? Non risponde, è evidentemente impegnato, va. Lei si farà sentire dopo, vai. Quello se si fa sentire. Vediamo un po' se è ancora in frequenza. Vittorio, ci sei? Sì, Gio Maria, ci sono. Ma arrivi basso però, Vittorio. Dove sei, a casa? Perché molte volte non mi prende bene, Gio Maria, quindi non mi sento. Perché devi trovare un punto, Vittorio, un punto preciso devi trovare e fermarti lì. Esatto. Ma passeggiando deve essere, io se sto passeggiando, ho questo freddo. Non lo so, Gio Maria. Attenzione, Vittorio, sei in zona d'ombra, sì. Ma passeggiando stai? E lo chef, non l'hai sentito? No, se non veniva mai in frequenza. Non l'ho sentito, Gio Maria. Oh, aspetta, Graziano! Ma male ti sentiamo. Cioè, deve essere in qualche zona d'ombra. Sì, un pochino adesso, non molto, Ti tolgo fuori appena appena. No? Provo a mettermi dal terrazzo perché c'è bene, quindi prende il segnale. Cosa ha detto? Nel terrazzo? E allora a casa sua? Non lo so, che è vicino all'antenna, Vado a mettermi vicino all'antenna, non lo so. Ma deve essere fuori. Infatti sono vicino all'antenna. Sotto a casa tua, sì, o sopra a casa tua? No, sopra a casa tua. Adesso mi stai arrivando bene. Non so se ti sente anche Gio Maria. Gio Maria, lo ascolti? A tratti lo sento però, Non ho capito dove si trova. Deve essere sopra casa sua, però fuori nel terrazzo. Bisogna vedere in quale posizione è lui, capito? se senti qualche caso avanti, non è che passi, magari tu lo senti, io no. A tratti lo sento, capito? A volte non lo sento neanche io, Gio Marie. Vicino alla terra. Adesso mi sei arrivato bene a me. Ma a Gio Maria non lo so. Adesso l'ho sentito anch'io. Poi a Gio Maria mi sento non so neanche se mi sente. Gio Maria ti ha sentito abbastanza bene adesso. Gio Maria, bene, hai ascoltato, sì? Come? L'hai ascoltato? Sì, già l'ho sentito adesso. Sono con Gommino, ecco perché lo sento bene, capito? Infatti lui è con Gommino. Anche tu sei col gommino? Ah? Anche tu sei col gommino? Fino al terrazzo. Ma Giovanni mi senti adesso? Già ti sento adesso. Aspetta, vai. Aspetta che cambio, vai. Sennò è un macello, Adesso gli chiedo a Luca se Facebook ci sta sempre in conversazione. E lui? Adesso uscendo tu. A voglia. Adesso va, dovrebbe andare, mi dovrebbe sentire più bene anche lui, dai. Vediamo un po'. Adesso mi senti bene? E tu? Ti sento bene. Oh, meglio così, dai. Adesso mi sono messo in condizione più migliore, dai. Vediamo un po' se c'è Marchisio. Attento, signor Marchisio. Oh, Graziano. Oh. Chissà cosa prende Graziano, è al telefonino a vedersi chi si filmiso. Se non va gente in casa? Può anche essere come Marchese è intaffarato stasera. Le 7:10 e lui ancora non si è fatto sentire. Signor Marchisio, aiuto! Niente da fare, non ne hanno voglia. A me mi si ghiacciano la mano, papà. Prima di pranzo, Marchisio, stavo uscendo bene il 27, cazzo la bomba io, ragazzi. Va bene, veramente, la radio bella chiara, che era un bombo. Se non era sopra. Non l'ho chiesto, comunque stavo uscendo veramente bene. Poi era chiarissima, è forte anche. Da parecchio non ti sentivo così, l'ho detto. Allora, se messo in riga di più, bello pippato, l'ho uscito. Andiamo. Allora. Dice che ha dato quell'apparecchio a controllarlo, ma dice sempre lo stesso. Ma qual era il PMR? Gianmarino, no, io di coso, nella frequenza nostra, l'ho fatta vedere per ritornare, però l'altra frequenza non vedo più riuscito, ma anch'io. Strano, boh. Allora bisogna andare a Lucca. Luca già si arrangia in meno della latte dolce, quello lì già li sa fare le cose. Ma è il fatto che l'inglese non rimane ghiaccio io. Rimane basso, dice che rimane basso come audio, l'audio dice che è molto bassa. No, come te scriva giù, no, l'audio da me era forte. Il coso che era, la... che a volte c'è basso, c'è non lo so neanche io, la sbagliata è giocata una bassa. Bisogna andare a gente competente, è inutile, noi siamo parliamo, c'è il sastro e da voi magari peggioreggiare la cosa, chi tocca lui va e è un casotto. Bisogna andare alla persona competente, gatta, che ha tutta la strumentazione, allora riesco a fare le cose come si deve, non ti sembra? Vabbè, ma è il fatto che bisogna sapere un po' l'inglese, bisogna sapere, ecco cosa è, se non sa l'inglese non riusciamo a farla andare nel coso giusto, perché la frequenza, tocchi il tasto è memorizzata. Senz'altro avrà qualche cosa, senz'altro c'è qualche cosa che non va. Se è così vuol dire che c'è quella zona, e allora la zona che ti dica. Allora ci vuole, è detto che sappia, che sappia cosa può essere, vai. E tutta senza strumentazione, come fai? Non è possibile. A ogni cosa ci vuole il metodo suo, sennò a occhio, cosa fai a occhio, gatta? Io vado a provare a farlo come l'ho fatto io, a cancellare, però mi sa che non cancella nulla. Cosa ti dica adesso? Macello, A poco mi dà fastidio a me quando l'apparecchio non va bene, mi cazzo, tanto fastidio, però sai com'è, io faccio di tutto, però me lo faccio mettere a posto. Non sto a tirare a lungo, tanto chi dà ragione, capito? E niente, lo faccio controllare da uno e dall'altro, e da voi magari non li cavano i bene nel macuedi. Anche questo c'è. Io una volta dato a Vittorio Giove, ho dato i Galas, quello che c'è Gianni doppio Ru, quello glielo ho dato io a Gianni. Però prima di dare a Gianni l'ho portato a lui, perché rimaneva troppo occupato alla radio. L'ha preso male lui, non sa come... Cazzo, 10 minuti, era una garolata, infatti tu lo senti quell'apparecchio, è perfetto in tutto. E magari lui sapeva dove mettere le mani, ecco cosa è. Io l'inglese non lo mastico, io ho provato a farlo, a vedere come avevo fatto altra volta, che non me l'ho messo a posto. Vado provato e sono in canali memorizzati e non riesco a cancellare la memorizzazione. Io ne avevo uno così, e mi sembra che è come quello che avete voi del PMR, che non sono riuscito a mettere la frequenza che dovevo, boh, non ho capito nulla mai. C'era una tintiera provando, niente da fare, l'ho appigliato e l'ho regalato. E lui ci è riuscito e già funziona. Gio Maria, quando riesce a saperlo un pochettino, riesce a cancellare la cosa, boh. Io vado provato, ma no, non vedo che ho riuscito. Adesso tipo una volta, allora mi ha detto Franco Califorici a portarlo da un tizio, dice che il suo gliel'ha messo a posto, cazzo, gliel'ho portato, se l'ha tenuto 2 mesi, l'ha tutto smontato l'apparecchio in officina, perché ha giusto anche strumenti musicali quello lì, no? Cazzo, l'hai visto cantante, era stesso, ed era sempre camminando questo apparecchio. Boh, ha detto, ma che sta, è così, alla camera, e dice, per farlo, dice, funzionare, avere un po', se mette a posto. Ha detto, vai, tu da mille l'apparecchio, da mille mi sono giù con Morselli. Dice, no, da mille mi sono giù con Morselli. Se non sei capace, non li devi toccare, non li devi aprire apparecchiatura. Ho preso, ce l'ho mandato a Bianconi, gatto, una settimana, mi è arrivato, era perfetto al 100%, gatto. Già mi ha fatto pagare, però l'apparecchio è arrivato originale. Se sai a chi mandarlo, loro hanno gli strumenti e lo mettono a posto subito, magari non lo dai a gente che non ve buona, e non ve nessuno. Ma chi c'è, gatto, io? Magari certe cose, ma qualcuno così, magari ci tenta, prova e fa, tocca a tutti, manda fuori tutto quanto, sembra che funzioni, invece non funziona più, infatti bisogna andare lì, paga e te lo fai mettere a posto, le persone competenti, e non ti attira, che ti gira e non riesce a nulla, perlomeno io sono fatto così, ecco. Se no ce lo butto, però siccome se va a fare il coccostoso è chiaro che me lo faccio riparare, no? Infatti. Così, infatti, se sai dove mandarlo, glielo spedisci, paghi e ti ritorna perfetto. Allora, cazzo. Adesso quello che ci abbiamo io, Graziano, cazzo, quelli sono belli apparecchi, sono piccolini, piccolini, ma sono perfetti, è così, ma non bisogna darla a nessuno, non bisogna darla a nessuno, se si guasta, la spedisce e te la fai aggiustare, capito? È tutto, ragazzo, fanno bene, cazzo. Oh, yeah. Vabbè, ognuno vede chi su che gli interessa, io l'ho perso diversamente comunque. Cado l'apparecchio si guascia, bisogna andare alla persona competente. Boh! Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. E boh. Boh, bisogna andare. Ma chi ce la fa? Ma chi se si è perso la bufera? Cos'è sto? Che porto fa? Ho sentito una portante. Vado a entrare ancora, fa gente, dai. Poi ha fatto andare qualche altra cosa. Ce l'ho riaperto l'apparecchio e sta maleggiando lui, qua cacciavite. No, era solo di coso, di metterlo, cancellare quello che c'è e rimettere la frequenza. Quelli lì mi sembra che... c'è un lavoro da fare, lì mi sembra che, perché ho visto la Luca una volta, ha dato fastidio anche a lui, non ci stava riuscendo, però la forza di provare, a provare, ha trovato il punto giusto e già l'ha messa. Luca! E te giurai a Luca? E chi è, chi è? Atala! L'entrata è uscita, faccio. Ehi, you! Drombi, drombi! Drombi, tutti! Eia! Ehi, la macchina ne prendo uno io! Almeno tranquillo, uno come si deve! Sì, ha detto che lo deve portare a Vittorio Giove, lo deve portare! Beh! Era ora! Meno me, certo! Poi se pure Vittorio riesca a mettere... No, se lo porta Vittorio già, dai, lo mette a posto. Ma deve portare a lui però, non a portarlo a mami, lo faccio lui, perché tanto è da ragione. Porta la Vittorio, vedrà che glielo mette a posto. No, ci sono ancora, grazie comunque, ben sentito. Ciao Vittorio, ben sentito, ti sento bello squillante. Portateli da me che io sono un genio, il genio della lampada. Cosa c'è? Cosa c'è? Avvero. Avvero, ecco che è uscito dalla tana, il lupo. E beh, flippero. Veglia solo. Ehi, bacetti, bacetti. Vittorio? Sì. Ah, mi senti? Sì, ti sento. Vittorio ballarà, ti farei da otto. devi addomesticarlo un po', Garido. Già ti dai il tempo, non è come lo chef, no? Che c'ha il dito facile quello lì. Che c'è? Vero dito facile. Eia, lo chef oggi ha preparato lasagne all'uovo, agli spinaci e contorno agnello in forno con patate bella brustolite, croccantelle. Poi un'insalata verde, bella bella, fresca fresca, cura bumarò. Ehi, buono oggi, buono. Mica a noi non ci interessa, a me. A noi non ci interessa, correre, già mangiamo ugualmente lui, a bere pure. E anche qualche pettina di cavallo a dondolo, aglio, prezzemolo e peperoncino. Bene, sono andato, non so cosa vuoi mangiare. se gli piace di mettere il cavallo a dondolo. È figa da russo alla griglia. Niente, vedete che è così. Buono, buono, tutto buono. Chi è che si è rotto il baracchino? Chi è, Tore? Abbo. Chi è Giammari? Giammari. E te che è? Chi è che si è rotto il baracchino? Non ho capito. A chi si è rotta la radio? A me, e ce la devo buttare. La pazzina, ne vuoi curarsi da dentro un canaccio? Ma, e la ripiazzi? Ce la butta, me lo compro nuovo adesso. Gatti, non le voglio io. Carraggi non li voglio, io voglio sempre roba perfetta. Ehi, nuovo, oramai bisogna comprare nuovo. E allora come fai tu sempre? E allora, e però Luca va in fallimento così, ehi. Noi, Tore. Ehi a Giammarì, già per grazie a te fanno in compagnia. E allora, meno male. No, è di compagnia, si è cosa, non la fini più, no. Io sono andato a fare un cronista, o come cavolo si chiama, cronista. Non lo vedi più, ti fido, grazie, che tu hai studiato tontologia. E allora, mi vuria la nuova Sardegna, mi vuria, e non mi sono cantato. No, rientrava i conti. Tore, questi giorni lo vedi disperso. Infatti a giurista pensi me che il vicino si è arruolato alla legione straniera. Oh, un attimino. E a Giammarì. E a chi cosa sono diventato? Un vicino sono diventato. Ammettati che la legione straniera piglia di qualsiasi agia e dai ascia e bacia, non guardano niente. Tanto da poi ti posano un cammello e ti pone in un deserto. Vero Vittorio? Vittorio, questo passaggio ti ho sentito tutto misturbato. Buonasera, mi dispiace, ma sto salendo a casa, Vado a casa. Non andiamo d'accordo, no? E abbandoni la moglie lì, no? Ci abbandono, sto via. E abbandono. No, adesso glielo dico io a Marina di seguirti, tu sei l'onfio. Maria, tu che sono l'onfio, dice. Già dormiamo ora. Marina, non lo fare andare, lega la rubina di uretto. Capito mi hai, Tore, e beh. Dito che non ha fede nel uretto. Non ne abbiamo veramente piedi nel letto. Arrete da mi aliato, a destra, a sinistra, sopra e sotto. Non è arrete neanche. E allora, gira non per mai correte, gocco in terra. Tra sentela ce l'abbiamo, no? Tra in terra, come il cinese, come giapponese. Allora, ti posso la foto, sì, poi te la mando su WhatsApp. Me. Allora, lei avrà la ringhiera più vicina che per Macoli. Vabbè, dai, io vado, dai. Questo lo lascio qua, non mi posso nuda a casa. Nel caso, c'ho il baracchino acceso. Eia, vabbè, se devi andare, vai. Ok. Ce la sentiamo, vai tu! Ah, aspetta un attimo, grazie, se senti a Bacchisio, è il numero, diglielo che io la radio gliel'ho aperta, l'ho controllata, però non ho visto anomalie, cioè integrati bruciati non li ho visto. Se riesce lui a intravedere l'integrato bruciato glielo cambio. Comunque si sente un po' l'audio, basso ma si sente di quella radio che mi ha dato, dai, vabbù, ciao, riprenditore. Sì, ok. Vai Lu, piano piano. Ok, se lo sento già glielo dico. Ma noi magari non è la radio del microfono invece. Cos'è, grazie? Dico, magari non dipende dalla radio, se non si vede niente di bruciato. non è che dipende invece dal microfono. Mi sembra quel microfono che usava lui era parla e ascolta, mi sembra. Tore! Ehi, grazie, dimmi, dimmi. E cosa hai fatto di bello che ieri non ti sei sentito? Sono rientrato un pochettino tardi, avevo di già sarrado. Ah, ma ne ha due pure allora. Oh, se che arrivato all'8:30 in oggi. Chi? A che sono a me lo abbai denni? Già la TV? No, mi guardo il telegiornale mentre sto cenando. Oh, e niente. A che sono all'8:30 nel studio? Ma le volte nel studio un cellulare che se no cominciano a arrivare i messaggi e magari c'è qualche film bello e cade sempre squillenti. Che te andiamo dove andiamo? Ma io andate con i carri, fate io bella figura, io morti di sonno. Bello già Bacchi. Ah, ben sentito, ha detto Luca che lui l'ha aperta la radio ed Integrati non ha visto lesionati, a meno che non l'hai visto tu lesionato. Gli fai vedere qual è e poi si potrà cambiare. Perché lui dice che per lui non c'ha niente. Io. Tu, Otto, in questo a radio adesso ho messo a parlare. È diventato un casino lo schermo. Viene poco di numeri, numeriti, disegni e disegnini. Ma non è che l'hai abbesso o no? Cos'è? Ho detto, non è che l'hai abbesso o no? Aspetta che provo a vedere. Io se no non so da dove c'è una fesseria, già mi rubato uno spinotto e queste cose. Però per lo più non ne ho mai aperto, magari sì, aperto, guardate quello richiuso. E se non te ne intendi a cosa l'avrà fatto? Non puoi toccare nulla se non ne sai. Ma chi quello il fatto che non lo so come cancellare la memoria da quella parte, ma ci ho provato un Bruno Romeo, non mi sono corri di scindo. Aspetta che cambio radio. Che cambio radio, Otto. Magari Luca Flipper lo sa me. Tore, come si fa? E lui ce l'ha preciso, ce l'ha, quindi già lo sa come impostarlo. Già dirlo a lui. Luca già lo sa, a me me l'aveva messo lui quando mi è arrivato il telefono. Anche io la verità è, non sapeva manco i buoni udito. Prima di Badano l'ho detto a lui e me l'ha messo lui. Infatti non l'ha più mai toccato. E gli dico, poi c'è chi via. È inutile una cosa, se non sai dove mettere le mani, a meno che non ti napputi nulla e vai a tentare. Che però se non ti napputi nulla, però non puoi subare una cosa vincia, al limite se non è che mi interessi molto poi ce lo butto. Però se una cosa è nuova non la tocco, manco pare idea. No, bisogna entrare nel menu e cercare la memoria di qualcosa e cancellarla. Questo è uscito nello schermo. Un attaccamento di un nome, di un inizio, di un inizio. Adesso è riapparto il giusto. Ma sei riuscito a cancellarlo? Adesso sembra che sia giusto. Aspetta, ci metto l'antenna, provo. Prova! Io non si richiede nemmeno un mortale. A chi tanto il gioco da pure il casinetto ed è un casino. Vedi un po' adesso Tore. Ma quello lì stai provando? Sì, a quello lì ho messo l'antenna. Poco fa il numeriti, ho cancellato, ma sembra che la frequenza sia uscita. Ma siccome te l'ho lasciato io ieri, io te l'ho lasciato la frequenza giusta. Sì, quella frequenza lì, si è incasinato da solo. Sta uscendo bene. Adesso, infatti, sta andando bene. Si sente perfettamente anche. È giusta. Questa è la il blocca canale. E beh, disgrazia, come mi ascolti tu, con le orecchie? Ti sento bene, stavo dicendo, per non spostarsi il canale, non ce l'hai tu il blocca canale, che te lo blocchi lì? Così per caso se tocchi qualche tasto non si sposta. Che piatto ha? Sì, ti ho detto, non lo so qual è il blocco canale. Ah, bisogna vedere dove, qua io ce l'ho in basso, sulla destra, il primo pulsantino, quello mi blocca i canali, nel portatile. Nel portatile? No, questo è fisso. Fisso e fesso. E penso che ci sia, però dovresti chiedere a Luca Flipper. Luca Flipper già ne sa di più, là. E quando lo trova Luca Flipper, quando lo sento già glielo chiedo. E magari si avvicina, te lo guarda lui e te lo fa vedere. A me me l'aveva fatto vedere lui. Perché una volta si è spostato il canale, stavo modulando e poi mi hanno detto, mi avevano detto cosa ai radioamatori. Però non me ne ero accorto io. Ho capito. Ma questa sulla frequenza la segna giusta. Come l'ho impostata ieri Tore. Eia, eia, vai tu! Bacchi, lascialo così, già si sente bene. Poi l'altra frequenza, un giorno che ci provo con il mio, vedrò di più. Sì, l'altra frequenza rimane com'è adesso. Capito? Ma se funzioni questa, l'altra non mi interessa. Comprè? Ciao Maria, non si è sentito stasera? Si è sentita, adesso non lo so dove è andata a finire. Ciao Maria! Ciao Maria, sto mangiando panettone. Detto che si è assentata, che è venuta gente. Ah, ecco, non è impegnato. Marino dice se faceva sentire stasera, io vai da mezzo giorno. Invece niente, Marino! E ci sono ancora. Mica c'è Vittorio anche, ma chi, tu lo senti meglio. Siamo, ciao Vittorio, buonasera, avanti. Che sta facendo di quello qua? Ti hanno calpestato, Vittorio, non sei uscito. Prova veramente, Vittorio. Ok, e ti sento un po' malino, ma dopo che non ti sento, da. Io ho detto qualcosa sopra Vittorio. Ha detto che ti senti un pochettino, oggi Vittorio è un po' disturbato però. Vittorio, ma a casa sì. Ah ecco, per quello si sente un po' di rumore, però già riesco a sentirti. Devi cercare un punto giusto per vedere se ti sente anche Bacchizio. Bacchizio, tu l'hai copiato. Io ce l'ho copiata Vittorio, lui non ascolta a me. Vittorio, mi ascolti? Sì, ti sento. Adesso è arrivata a bomba, dai. Stai fermo lì, non ti muovere più, mi. Avanti, to, sentito l'hai tu. Tore si è mangiato lo cucciucciolo, grazie. No, già so di noghi. Certo, mi mangio il cucciucciu, va. Tutto un mosso. Ora bisogna lì all'unpegni. Cadono già a me, mo diremmo lo cannabu. Prova a tirarvi di, grazie. Anche un bel di voce, ti chiama, non rispondi, non rispondi a scoppio ritardato. E la linea a ritardata da quali? Ah, boh, non lo so cos'è ritardata in salia. Ah, vai dalla doia, vedi. Quando dico qualche cosa, mi rispondi da bello quattro d'ora. Così lungo è il tragitto. Ma chi, così lungo è? Non lo so, così cappè dicono, sempre divisi. Ma chi, così lungo è, Graziano? Oh, ma chi, avrebbe le compresa. Che cosa ho compresa? Sono i transistor della radio di Dore, staccano a RCB, allora risponde in ritardo. Ah, a scoppio ritardato, bene bene, come quelli di Vittorio sono. Lasciami se riposi. Vittorio, ci sei? A Vittorio si è mangiato il coccolinudo. Ti ha giudito, addirittura va, è proprio in Parigi, Vito! Ti sento, tu non ti avvicinare la bocca, Marco, perché sennò non ti sento. Ma che cosa, Graziano, non lo senti? A grazie, non lo sento benissimo perché se sono vicino all'antenna di casa, capito? Ah, ecco, vedi, grazie, ha visto che ti ascolta. E Tore che non l'ascolta, Tore avanti. Io già l'ascolto, sì. Che te se l'ascolto? Non rimanere vicino all'antenna, magari c'è il volo, poi di Trento. Capito, capito, metti dentro casa, metti, se non stare fuori. Mettiti dentro casa, vicino alla finestra o alla porta, è la stessa cosa. No, vabbè, se sono vicino alla finestra, se no non prende. E metti vicino alla finestra, però all'interno della casa non piglia freddo, no? Ma chi? Ma sento un attimo. È andato a dare a mangiare il cane, grazia. Ehi, è già lo credo che ti confetti, se no che ti ricordo il mosso a culo, lo fate se che rea. Allora manco fa vita, se non musica ce non fa vita. E allora, ma, no, adesso lo sento bene a Vittorio io, ma che non sia fuori, sta dentro tanto cosa giamba, fuori o da fuori, biglia freddo, 30, ormai come è più caldo. Non rimanere fuori, rimane a parte dentro, chiudi la finestra, si esci, esci, cosa ti nappi, cosa ne hai di bigliare, malanno, No, non mi sento male, tranquillo. Perché fuori c'è freddo, già fai freddo dentro casa, e tutti i novelli che stufa accesa, vero, ma... E allora, ci rimani fuori, c'è freddo. Ma sai cos'è Grazia che prendi Vittorio? Può andare ancora domani, anche domani mi rizzappà. Oh, domani con la cosa è ben freddo, non ne fanno a scuola. Dabbè domani mi pare per sciopero di tram. Puro. Ogni a poco fa di sciopero. Andare, Vittorio pare sia rientrato. Tore è caggiuto. Ha scintato ad ammagnato Cucciuccio. Vediamo se c'è Marino all'appello. Marino? No, Marino non speak inglese. Mi sembra di non sciopero, mi pare che non vengono in sciopero, mi pare. Non in gioco, Perché siamo un tot di giorni facendo sciopero. Beh, questi professori ormai se ne strabattano, ma chi? Ma in giù in azienda che c'è? Roberto c'è? Sì, c'è ancora, fai forza. Allora che mi fate camminare Roberto io? Sì, no, che sia ti fate camminare vero. Domani taglia a cartoffa, Riparati. Visto. Grazie, a domani Vittorio tagliando a cartoffa. Buono, tutto è buono, ma te ne da poi ne arriva un po' a casa, è buono. Vedi, te lo porto bello fresco, dai, cosa vuoi da dici? Vittorio, sei in terza o in quarta? Questo nel caso ne porta anche un papacchisio. Ho visto, tu chiesi in quale classe sei, in quale anno? In prima, ripetente sono. Ripetente, sì. Allora sei anche asinello. Grazie a chi che non bisogna dargli il rogoseno, la zappita in mano, Luca Russo. Ha fatto da birbantello l'anno scorso, ma quest'anno già studia, se non lo frustano. Domani vado in agraria, e lo dico a Roberto, di punirlo un poco più a lenza. Già mi sto impegnando quest'anno, tranquilli. Impegnando se sai, chissà. Se no le zucche le avete piantate ancora, no, ma sì, forse è cominciato a fare il plateau con le zucche. Una divide da guintare, piantami. Quest'anno i butti sono anche più alti. Meglio dell'anno scorso, già sono più alti quest'anno. E fai la fine di Pinocchio. Chi sta vendendo i libri? Edo si vende dei zucchi. E da poi ne hai butti giù i moretti e ve li hai fatti piantare. ma queste cose non le fai prima, le fai minimo dalla terza alla quarta alla quinta. A vedere se sono cresciute le monete nell'albero. Pinocchio, te lo ricordi? Capito, grazie. E che cosa? Cosa hai detto? E ho detto che queste cose le fai dalla terza alla quarta e quinta, non prima. Ehi, bisogna studiare se vuoi diventare un domani un perito agrario, vero Bacchi? Ehi, ehi, il perito agrario lo devo fare. Ehi, diventi perito dopo che non ho venuto che fa. E beh, ma almeno ha studiato Bacchi. Con la zappa cammina più veloce. E infatti ha studiato, anche mio figlio ha studiato e adesso ha studiato in dibata. Ma le buoni con la zappita di sorfazza. La zappita era dimmi, non usavamo come si seguiva la zappita, che non, la zappa non li buttavano. La vedevano in televisione, non se ne zappava. Ah, così, allora male, male. E tu lo dovevi già avviare, gli potevi fare una scuola guida. Scusa, a chi lo sai, un istituto io che la farei a cura. Lo avviavi, no? No, dopo io sai cosa è graziato, ci posso la cura, diventa in altri, dunque diventa leggermente un istituto. Un istituto dei mandroni. E allora gli vivo un bel nervetto di cavallo a schicchiare un po' di muscoli di gambe. E proprio così è, vivo, vivo. Un nervetto vivo. E se non un ruccio degli astro. Poi me lo mangio, grazie di più. Poi me lo mangio questo microfono e non ne ho fuori. Bravo, adesso ti sento. Ti avvicini la bocca, ti sento meglio. Te lo credo, giallo. Tore! Bacchi, ma a me da babbo quando travagliavo io mi davo di voi da un distributore di latte. A 7:15 i nativi, mi prelevava e mi si buscava in campagna, gana o no gana, a zappa! Che murcia? No, è quello che giù io lavoravo, quello che era di dettori. Ho capito, quello da chi adesso l'hanno fatto a nuovo, fingio di murcia, dai, ho capito, anche io mi travagliavo. Chi era il proprietario di Poli? Non mi ricordo adesso chi era. Dettori Giancarlo, era anche il mio padrino di cresima. C'ero 5 anni e più lì ci ho lavorato. Ma è vero, era il pulito dei dettori, allora non aumentava più. Dunque che poi è diventato dettori e c'è anche un altro, era in due. Perché io non l'ho voluto in gestione. Allora me ne ero andato in marina volontario. E invece di pigliarmi un rifornitore me lo voleva dare a me in gestione. E lui se ne andava a Santa Maria. Invece io me ne sono andato volontario in marina quando lavoravo lì. Hai fatto male perché il rifornitore adesso era stato tuo e avevi lavorato a gonfie vele senza fatica. Lo so, sarebbe stato il mio sì, ma di adusso egli viene sempre alla zona, non ci veniva mai lui. Vabbè, il traffico prima ce n'era poco e dunque non da solo ce la faceva, ma là veniamo bene, non vedi traffico. Avanti Vittorio. Ho capito cosa hai detto. Cosa qua c'è, mi pare che sia un giro di banca. Ma da Salerno vado a vedere la ghiata e che vai a coccarti. Ma se lui lo deve fare lì? Io c'ho il pranzo di mezzogiorno che tutto non l'abbiamo mangiato, me lo mangio stanotte. Lasagna all'uovo, agli spinaci, sono lasagne all'uovo agli spinaci verdi e agnello in forno con le patate e tutte le costolette ci sono, che ci sono da russigliare, vero Bacchi? Sì, ahi c'è russigliare, lo cucciuccio lo russigliano io, lo russigliano il cucciuccio, grazie. A voi poi più buona di lusci, le costolette, avevo un cucciuccio di costolette, c'è una sighetta, c'è penta, e passatura. Ma sono saporite, gli dai una fisarmonica e poi la lasci per il cucciuccio. E ci butti tutto, una volta fai la fisarmonica, capito, anda bene bene. Vediamo, Tore! Tore Brienne con un cane a chi ne rimane nei crocchetti! Sì, ci rimane tutti, rimane, cosa i crocchetti che... Che ogni tanto lo devo andare in cucina a Baidà! Al bucallo, a chi lo mangia la zula! Sono cubare un cane, c'ho cosa che sto facendo io! Ah, stai cucinando, dai, a controllare ogni tanto fa. E siccome Bacchisio dice, a peggio mio se la mangia drugana a Tore. Bacchi! Sì, ma grazie, Tore lascia il cane, in bocca di drugani, le denti la bappa, le denti. E te giurai, va, Tore! No, l'ho sentito, che mi allontano ogni tanto. Io deve avvicinare la bocca perché sennò non si sente. Ehi, vediamo che la bocca non va a vaglino, sennò si butta tutta la camicia. Vai Bacchi. Ehi, così è. Vediamo se il Marino qua. Marito, ci sentiamo stasera, il Marino invece non sente seduta, grazie. Nulla, che se deve sei? A panza fa cosa? A barbecue. Oi, chi c'è una uragana, chi c'è un babarà, la panza di vulparo. E a panza è nato ed è ruttente ancora. Con tutto questo che si avrà mangiato oggi, vicino al gaminetto, in secca di babi dai nocchi. Ah, va il barbecue, ha fatto il barbecue, dai, le collaudenti. Capito? Dunque è impegnato. Ah, ma niente, da che fine di mangiare già entra. Dimmi a chi una cosa a Graziala quando ci siamo incontrati, di giuro. Ehi, a Graziala, ho incontrato a Vittorio l'altra sera, mi sono cotti di gatto di un freddo. Ehi, già l'ho sentito l'altra sera che era insieme a te, al Bar Sanna lì. Ti veda freddo, che ti gancalava. No, sono arrivato a casa e ho un ghiacciolo. Si trova un freezer dei guai. A ghiacciarmi le mani dappertutto, da destra e sinistra. Grazie, inizialisiamo se ne è andato a Rogaggio. E mi arrivi che ho spaccime d'uomo, ma... Ma sai, altro 22 metri, grazie. E allora si pone di bene a voglio la sera. No, è in istituto, sono professori, faccio pure per la moglie ogni anno, poi ci sono crescenti. Ah, così è, lavarano pure a tirare, da bene, da cogliere, girano un po'. Ma tagliano i ruba dall'albergolato. Quanto sei alto, Vito? Vito, dimmi quanto sei alto, ma Graziano, che non vi credi che sia più di 2 metri. No, sono alto quanto è coso, Bacchisio. Grazie, compresa, e fini fini longo longo. Tipo spaghetto, là, o tipo bavetta. Da, una cosa del genere, da. Ehi, allora devi andare in palestra per squadrarti un po'. Ehi, ma a me lo sport non è che piace proprio, non è andato proprio a me, lo sport a me. Guarda che lo sport fa bene, io all'età tua andavo a fare lotta greca romana e lotta libera. Ah, che pugile ho fatto! Ma c'è un bello sport, qui. Ehi, a piglia colpi! Ma chi? Tore, a ci sei! Sto facendo cosa? Sto facendo, dai, vi saluto! Se no, non riesco a fare nulla. Ci sentiamo domani, ci sentiamo, dai. Ciao Battiso, ciao Vittorio e ciao Graziano. Ciao. Ehi, ciao Tore, a domani, dai, adesso chiudo anche io, sono già le 8 ma non 4 quasi. Ciao Vittorio, ciao Battiso, ciao Gio Maria e ciao chi è in ascolto. Alla prossima, Battiso, riprendi tu e me ne sto andando. Ciao! Sì, domani. Sì, ciao Graziano, buona serata, saluto la signora e anche per Tore, ciao Tore, salutissimo anche per te, saluto la signora. E anch'io ne approfitto del micro per passare in correttì così mi prendo le medicine. Ok, ciao Vittorio, salutissimi, salutami Correa familiare e ci sentiamo domani. E Bacchigio da questo istante ascolta il finalino e vai in QRT, bye bye. Ciao Bacchi, a domani. Ciao ciao a tutti, ciao. Ciao ciao. Antonello. Sei pronta, sveglia?